L'Europa del Neolitico e dell'età del bronzo, 6500-3500 a.C., non era indoeuropea. Io l'ho chiamata Europa antica per distinguerla chiaramente dalla successiva Europa indoeuropea. Le realizzazioni più raffinate dal punto di vista artistico-artigianale della civiltà antico-europea si manifestarono nell'Europa centro-orientale nel quinto millennio a.C. All'apice del suo periodo più florido, essa divenne una preda privilegiata dei pastori delle steppe del Dniepr e del Volga e, circa un migliaio di anni dopo, dei pastori del Caucaso settentrionale e del Ponto settentrionale, i quali ne mutarono completamente le fattezze. I conquistatori erano proto-indoeuropei nomadi e guerrieri che in termini convenzionali chiamo popolo Kurgan. Il popolo Kurgan intraprese tre grandi ondate migratorie nell'Europa antica. La prima ondata fu compresa nei due secoli tra il 4400 e il 4200 a.C. La seconda ondata nei due secoli compresi tra il 3400 e il 3200 a.C., cioè 1000 anni dopo, e la terza ondata nei due secoli tra il 3000 e il 2800 a.C. circa. Ciascuna ondata provocò un effetto kurganizzante sulla popolazione locale, con un conseguente notevole mutamento culturale. Questo processo di trasformazione equivale al concetto di indoeuropeizzazione. Le testimonianze archeologiche, mitologiche e linguistiche parlano della vittoria della struttura sociale patriarcale sulla matrifocalità antico-europea e sulla sua probabile matrilocalità. Il popolo Kurgan introdusse un sistema amministrativo centrato su fortificazioni e una nuova religione con dei maschi guerrieri che ne dominavano il pantheon, in opposizione alle divinità creatrici femminili dell'antica Europa. I parlanti in lingua indoeuropea introdussero anche il metallo duro, il bronzo arsenicato, per la produzione di stiletti, asce piatte e da lancio, ma anche stili di combattimento a dorso di cavallo con pugnale, lancia, scudo, arco e frecce. L'economia agricola dell'Europa antica fu soppiantata dall'economia pastorale del popolo Kurgan. Talvolta i due sistemi sperimentarono una coabitazione più o meno forzata. Il processo di indoeuropeizzazione fu essenzialmente una trasformazione culturale più che fisica. Esso deve essere inteso come una vittoria militare nei termini di un'imposizione di un nuovo sistema amministrativo, una nuova lingua e una nuova religione esercitata sui gruppi indigeni. L'organizzazione sociale facilitò enormemente le imprese di conquista dei Kurgan. Gli antichi europei non avevano una classe guerriera né cavalli, essi vivevano in monarchie, presumibilmente teocratiche, presiedute da una sacerdotessa regina. La struttura patrilineare e patriarcale e il sistema di classi tripartito, sovrani, nobiltà, guerriere e lavoratori dei Kurgan, produssero invece una cultura ibrida, sono di matrice proto-indoeuropea ed ebbero ragione della cultura più antica, con la violenza. In seguito alla seconda ondata, la kurganizzazione o indoeuropeizzazione dei territori dell'Europa centrale diede vita a una seconda patria. In particolare, nel momento in cui questa zona divenne un nucleo dal quale si diffusero altre migrazioni dopo il 3000 a.C. Il nuovo sconvolgimento fu causato dalla terza ondata Kurgan, l'invasione dei pastori nomadi delle steppe del Dniepr e del Volga nell'Europa centro-orientale fino all'Ungheria nord-orientale e alla Bulgaria. L'agricoltura era minima nella cultura Kurgan delle steppe. Solo il miglio è stato identificato nei siti Kurgan della steppa Dniepr-Volga. Non ci sono tracce di piccolo farro e farro medio, orzo, avena o segale, ma negli insediamenti sono state trovate zappe di pietra, lame di falce, inselce e pietre da macina. Grandi strumenti a forma di falcia, recuperati in molti insediamenti, sono considerati essere parti di aratri primitivi. Sembra che nelle loro case originarie il popolo Kurgan praticasse una forma estensiva di economia delle graminacee. L'infiltrazione di elementi culturali indoeuropei in Olanda, Danimarca, Svezia meridionale, Norvegia meridionale, Irlanda orientale ed Europa nord-orientale, Baltico orientale, Bielorussia e Russia centrale, dall'Europa centrale si verificò durante il 3000-2500 a.C. Il mutamento culturale apportato dall'avvento degli indoeuropei fu soprattutto di tipo sociale e religioso. Il regime patriarcale è attestato dalla comparsa di fortificazioni e di prominenti sepolture di capi e guerrieri. Il culto solare indoeuropeo è rappresentato nelle decorazioni della ceramica e dischi di ambra o pendenti ad anello. Il culto del cavallo è riprodotto su incisioni di figure di cavallo e nei sacrifici. Le sepolture individuali prendono il posto delle tombe collettive. L'arrivo degli indoeuropei in Grecia può essere collocato tra il 2900 e il 2600 a.C. Una delle rotte fu il Mar Adriatico. I gruppi di guerrieri indoeuropei che si insediarono in Grecia non erano numerosi e tuttavia riuscirono a trasformare, a indoeuropeizzare la cultura locale. Nei secoli XIV e XIII a.C., tutti quei gruppi svilupparono notevolmente l'arte metallica. L'Europa centrale, con il suo cuore nel bacino del Medio Danubio, divenne la potenza militare più minacciosa dell'intero continente. Tutta la penisola balcanica era a quel punto sotto il segno della potenza militare centroeuropea. La comparsa di bronzi centroeuropei, spade a elsa, punte di lancia a forma di fiamma, asce a mezzala, fibbie di arco a violino, in Grecia coincide con la catastrofe della cultura micenea matrifocale originaria, soprattutto in Creta. C'è una sola spiegazione possibile. Furono dei guerrieri dell'Europa centrale a portare in Grecia questi bronzi tipici dell'equipaggiamento dei capi e della nobiltà guerriera Kurgan. Né gli Illiri, né i Frigi, né i loro affini armeni si insediarono permanentemente in Grecia, ma la loro partecipazione a campagne contro il mondo miceneo è indubbia. Durante i secoli XIII e XII a.C., la cultura dell'Italia fu drasticamente rimodellata. Pressoché ovunque si diffusero i riti di cremazione, che sostituirono le sepolture. Si infittirono i collegamenti con il nord. Nella zona vicino a Milano sono stati trovati diversi insediamenti della cultura dei Campi Diurne, originaria della Baviera e dell'Alta Austria. E infine la nostra cultura appenninica scomparve. La Francia orientale fu colonizzata in ripetute ondate. In Francia meridionale e in Iberia, nei secoli IX e VIII a.C., si insediò l'ultima popolazione dei Campi Diurne. Queste migrazioni occidentali avvengono in contemporanea con la comparsa dei popoli di lingua celtica in Europa occidentale. La collisione di due ideologie. La cultura indoeuropea, con la sua struttura sociale basata su diverse classi e la sua religione fondata su dei guerrieri, si impose in Europa in molteplici fasi. Giunse dapprima in Europa centrale nel 4500-3000 a.C., poi si diffuse a nord e a sud nella prima metà del terzo millennio a.C., arrivando successivamente alle isole dell'Egeo e del Mediterraneo. Dal terzo millennio a.C. in poi comparvero culture e mitologie ibride. La civiltà su cui si insediò la cultura indoeuropea, cioè l'antica Europa, con le sue decine di migliaia di statuette della dea, la sua ceramica mirabilmente dipinta, i suoi templi affrescati e le sue città ordinate, scomparve. Al suo posto si costruivano castri, si diffuse l'uso delle armi e fece la sua comparsa un sistema simbolico completamente diverso. Il riconoscimento della collisione di due ideologie, quella antica europea e quella indoeuropea, si basa sulla ricostruzione dello scontro tra l'Europa antica e la cultura Kurgan proto-indoeuropea, di cui si hanno le prime tracce nella zona del Volga durante il Neolitico e delle successive invasioni di cavalieri a cavallo Kurgan in Europa centro-orientale nel periodo tra il 4500 e il 3000 a.C., che condusse alla trasformazione dell'Europa antica. Il mutamento della struttura sociale, la transizione dall'ordine matrilineare a quello patrilineare, da un'avanzata teocrazia a un patriarcato militare, dall'eguaglianza sociale alla diseguaglianza, dalla religione della dea Ctonia al pantheon indoeuropeo dominato da divinità maschili e celesti. La formazione di una seconda patria europea in Europa centrale, composta da elementi indigeni ed elementi Kurgan mescolati. La cultura europea, ma anche quella dell'Anatolia e dell'Asia meridionale, ha due ingredienti costitutivi principali: un substrato antico europeo e uno strato superiore indoeuropeo, entrambi ancora esistenti oggi nella lingua, nel mito, nei simboli. I sistemi di credenza antico europeo e indoeuropeo sono diametralmente opposti. Anche solo questo fatto testimonia della collisione, ovvero del carattere invasivo degli indoeuropei rispetto all'Europa. Non è possibile che la società indoeuropea esogamica, patriarcale, patrilineare e patrilocale, con forte organizzazione clanica e gerarchica, si sia sviluppata dalla società antico-europea, centrata invece sull'interazione armoniosa degli uomini con la natura e sulla complementarietà dei rapporti tra uomini e donne. I simboli antico-europei sono intimamente collegati alla terra, umida, alle sue acque generative, agli organi procreativi femminili. Sono simboli ciclici come la luna e il corpo femminile. La filosofia che produsse questa immagine non ha assolutamente nulla a che vedere con l'ideologia indoeuropea orientata al cielo, con i suoi dei guerrieri armati a cavallo, signori del tuono e del fulmine, o le sue divinità degli inferi acquitrinosi, la sua strutturazione polare del mondo, giorno-notte, splendente buio, maschio-femmina, la sua ideologia in cui le divinità femminili non sono più creatrici, ma ridotte a mere bellezze, veneri, spose degli dei del cielo. Il tema principale del simbolismo della dea antica europea è il mistero della nascita, della morte e del rinnovamento della vita, mistero che riguarda non solo la vita umana, ma tutta la vita sulla terra. I simboli e le immagini si raggruppano attorno alla dea partenogenetica, ossia che si genera da sé. Ella era l'unica fonte di tutta la vita che traeva forza dalle sorgenti e dai pozzi, dalla luna, dal sole, dalla terra, dagli animali e dalle piante. Le sue funzioni fondamentali erano dare la vita, governare la morte, rigenerare. Era anche la dea della fertilità della terra, che nasce e muore con la vita delle piante. C'erano anche divinità maschili, ma non fungevano da creatori. Erano i guardiani o i proprietari della natura selvaggia, o erano metafore dell'energia vitale e dello spirito della vegetazione. Simboli sacri della cultura dell'antica Europa matrifocale erano la donna come uccello, anatra, oca, uccello acquatico, cuculo e altri uccelli primaverili, la donna serpente, la partoriente, in posizione di parto, antropomorfa e zoomorfa, come orsa o cerva. La nutrice, donna mascherata da orsa che porta una borsa. Protettrice di animali e piante, affiancata da animali e piante. Come simbolo di fertilità, era simboleggiata da una collina, pietra, forno, tomba, tomba a forma di forno, di alveare o a camera tonda, come scrofa, come giovane dea in piedi con le braccia alzate e come anziana che rappresentava la natura morente. Poi vi era la funzione di governo della morte e rigenerazione. In questo caso i simboli erano donna, uccello rapace, avvoltoio, civetta, corvo, cornacchia, cane bianco, cinghiale, la nuda rigida, detta anche dama bianca, con maschere di civetta o serpente, solitamente intagliata in osso, un osso con occhi di civetta, il triangolo rigenerativo simbolo della vulva, ascia o clessidra, L'utero in forma zoomorfa, rappresentato come pesce, rospo, porcospino, tartaruga, bucranio, ossia muso del toro, donna pesce, donna rana, donna porcospino. Un serpente avvolto in cima, albero o colonna d'acqua, ape farfalla, donna ape o donna farfalla. Questi i simboli della dea nel suo triplice aspetto di datrice di vita, fertilizzatrice e governatrice della morte o rigeneratrice. Mentre il pantheon proto-indoeuropeo era organizzato secondo un'ideologia socialmente ed economicamente orientata. Le classi dominanti, quella dei sovrani, dei sacerdoti e dei guerrieri, erano adatte al ruolo predominante della pastorizia, in un'economia ad allevamento misto, con particolare enfasi sul cavallo. Le più importanti divinità maschili montavano a cavallo e portavano armi. Le funzioni di creazione della vita e di dominio della morte appartenevano alle principali divinità maschili. Le dee, come l'alba o la fanciulla solare, non sono creatrici, ma sono spose o mogli degli dei. La religione era orientata verso la rotazione del sole e altri fenomeni celesti, come il tuono e il fulmine. I loro dei celesti splendevano intensi come il cielo. Nelle rappresentazioni dell'età del bronzo, essi portavano armi splendenti, coltelli, spade, scudi ed erano adornati con pettorali di rame o d'oro, dischi d'oro o di ambra e cinture di rame placcato. D'altro canto, il dio della morte, contrariamente alla grande madre rigeneratrice della religione Ctonia antico-europea, il dio della morte indoeuropeo era un dio infero, oscuro, spaventoso. Gli indoeuropei glorificavano la velocità della freccia e della lancia e l'affilatezza della lama. Il tocco della lama, dell'ascia, risvegliava le potenze della natura e trasmetteva la fecondità del dio, il dio del tuono, come il tocco di un fallo. Con il tocco della punta della sua lancia, il dio della morte e degli inferi destinava l'eroe a una morte gloriosa. Il tempo era concepito come un movimento lineare, progressivo e inesorabile, come la traccia lasciata da una ruota. Il cavallo tira la ruota delle quattro stagioni e quella del giorno dall'alba al tramonto. Il cielo è visto come una collina, il sole sale e scende sulla collina, tirato su un veicolo che poi diverrà un cocchio da cavalli instancabili. I due sistemi mostrano due tipologie diversissime di credenza nell'aldilà. Dunque, nell'Europa antica, come abbiamo detto, una forte credenza nella rigenerazione ciclica è riflessa nei riti funebri. L'idea dominante nell'architettura funebre neolitica è la tomba come grembo. Le tombe sono ovali a forma di uovo, di forno, di utero, oppure antropomorfiche, concepite come fossero il corpo della dea, come gli splendidi megaliti di Malta. Il triangolo generativo compare anche nei profili di tombe e altari e in altre strutture architettoniche. I simboli sulla pietra delle tombe megalitiche sono simboli di rigenerazione, di acqua vivificatrice e di energia vitale. Coppelle, cerchi concentrici con un punto centrale, archi concentrici, serpenti che si attorcigliano, spire, teste di toro come uteri, spirali, triangoli che simboleggiano le vulve, losanghe che simboleggiano la doppia vulva, forme a clessidra che sono sempre simbolo di doppia vulva, zigzag simbolo di acqua e cicli lunari, o immagini della dea della rigenerazione con labirinti, vulve e seni. C'è una barriera di acqua tra questo mondo e l'aldilà che è attraversata da barche, a loro volta simboli di rigenerazione. La collocazione dell'altro mondo è a ovest, non sottoterra. La vita dopo la morte è piacevole e desiderabile. Gli indoeuropei, invece, hanno una continuità lineare tra questa vita e l'aldilà. Per questo si costruiscono case mortuarie e i morti portano con sé nell'altro mondo i propri beni, gli oggetti, le armi e gli ornamenti a seconda del loro rango. I doni conferiscono ai morti il loro rango, le tombe regali e quelle di altri membri importanti della società sono sontuosamente arredate. I re e i capi sono sepolti con esseri umani, mogli, servi, bambini e animali, cavalli, pariglie di buoi, cani. La morte in battaglia è glorificata. I doni di cibo continuano a essere fatti dopo il funerale, necessari al benessere delle ombre. L'altro mondo è sotterraneo, paludoso, dominato da una divinità sovrana maschile, è cupo, freddo e sterile. Il viaggio per l'altro mondo implica una strada o un fiume e di solito un periodo di 3 giorni di viaggio a piedi, a cavallo o su un cocchio. Le anime restano là e trascorrono la loro esistenza post-mortem in modo fiacco e passivo. Non c'è credenza gioiosa nella rinascita o nella continuità dell'energia vitale in altri esseri viventi, come nell'Europa antica. Per questo occorre ribadire che le credenze degli indoeuropei non potevano avere un terreno di cultura originario presso gli antichi europei. Nella seconda metà del IV millennio a.C., il modo indoeuropeo di seppellire e le annesse credenze nell'altro mondo misero radice in Europa e gradatamente sostituirono la sepoltura comune di tipo antico europeo. Nella tradizione antico europea il serpente era benevolo, simbolo dell'energia vitale del cosmo, degli uomini, degli animali e delle piante, stimolava e proteggeva le potenze della vita, della famiglia e degli animali domestici. La spira di serpente è intercambiabile con il sole, la luna e l'occhio. Nella tradizione indoeuropea, invece, il serpente è simbolo del male, è epifania del dio della morte e degli inferi, avversario del dio tuono. Le due religioni e mitologie avevano simbologie completamente diverse che tuttora esistono e perdurano. Quelle antiche europee, indigene, ereditate dal Paleolitico, e quelle degli invasori indoeuropei, furono in collisione in Europa e questo provocò l'ibridazione delle due strutture simboliche che tutt'oggi viviamo. Gli indoeuropei prevalsero, ma gli antichi europei sopravvissero come un fiume carsico che scorre sottoterra. La caduta e la trasformazione dell'Europa antica. Ricapitolazione. Nel 4500 a.C. il continente europeo ospitava un gruppo fiorente di culture devote alla religione della Dea. Lungo i 2 millenni precedenti, dal 6500 al 4500 a.C. circa, queste culture avevano intrapreso un'evoluzione pacifica e alla fine di questo periodo raggiunsero quella che si potrebbe propriamente chiamare un'età dell'oro della civiltà antica europea. Esse produssero arti e oggetti di artigianato di notevole qualità. Le comunità raggiunsero popolazioni di diverse migliaia di individui ed erano disposte secondo criteri pianificati. Le città erano collocate anche a considerevoli distanze l'una dall'altra. Quelle più grandi fungevano da centri religiosi e commerciali. La metallurgia era praticata nell'Europa centro-orientale. Gli artigiani producevano gioielli e strumenti d'oro, argento e rame, con simboli che attestano la perfetta padronanza di questi mezzi. I ceramisti dell'Europa antica producevano una ceramica così raffinata nell'esecuzione che non sarebbe più stata eguagliata per migliaia di anni e ancora oggi. Si sviluppò anche una forma di scrittura che attesta il raggiungimento di alti livelli di astrazione. Il centro della vita per questi popoli era la religione della dea, perciò si parla di società teacratica. Lo svolgimento perpetuo del ciclo della vita, della morte e della rigenerazione, incarnato da una forza femminile centrale, la dea. L'architettura più avanzata, edifici a 2 piani, era riservata ai templi. La religione coinvolgeva tutti gli aspetti della vita e anche la tessitura e la cottura del pane erano incluse nei templi come attività sacre. L'evoluzione di queste antiche civiltà avvenne senza l'uso della forza. In nessun sito dell'Europa antica si trovano testimonianze di guerre, poiché le fortificazioni sono assenti e gli insediamenti sono collocati vicino a fonti d'acqua o campi, senza sistemi di protezione da attacchi. I grandi monumenti circondati da fossati e palizzate erano costruiti per scopi rituali, non come fortificazioni difensive. Non esistono testimonianze di battaglie campali e di invasioni violente. Da nessuna parte si trovano guerrieri sepolti con gli arti recisi o punte di lancia incastrate tra le ossa, e da nessuna parte si trovano segni di glorificazione degli eroi di guerra. La società era ginocentrica, ossia la donna era il centro, e matrilineare, ossia di madre in figlia. Il clan familiare era strutturato attorno alle donne. Le donne più anziane erano particolarmente considerate in quanto creatrici del clan. Il ruolo centrale delle donne nel clan familiare rifletteva il ruolo centrale della dea nella religione. Attorno al 4300 a.C., l'età dell'oro dell'Europa antica nel bacino del Danubio ebbe fine. La continuità e il tessuto della società antica europea furono lacerati. Molti degli insediamenti abitati per centinaia o anche migliaia di anni furono abbandonati. Le floride culture matrifocali scomparvero. Strati bruciati nei ritrovamenti archeologici attestano l'avvenimento di incendi, distruzioni e anche massacri di persone. Alcuni villaggi furono rioccupati, ma da altri popoli con tradizioni di ceramica completamente diverse e un simbolismo e un sistema religioso antitetici. In altri siti ancora, il cambiamento è più graduale. E vi fu un cambiamento nell'economia. Nell'Europa antica l'agricoltura era il principale mezzo di sussistenza. Cambiò l'economia di base, invece, molti campi divennero incolti e crebbe la pastorizia. I nuovi insediamenti furono posti su promontori e colline sopra gli argini del fiume, una collocazione strategica per mettersi al sicuro da attacchi. Inoltre comparvero delle vere e proprie fortificazioni. La qualità dell'artigianato declinò, furono impiegate argille più grossolane e tecniche di cottura più povere. Il cambiamento nell'arte riflette un cambiamento fondamentale nella religione. I simboli della tradizione della dea vennero meno, rimpiazzati da un nuovo sistema simbolico nel quale erano centrali simboli solari e armi. La cultura Kurgan della Russia meridionale. Verso la fine del VII e lungo il VI millennio a.C., diverse culture iniziarono a svilupparsi nelle regioni a nord del Mar Nero, del Caucaso e del Mar Caspio. A differenza delle culture antico-europee più a occidente, la cui economia era basata sulla coltivazione, le prime culture neolitiche di queste aree praticavano un'economia di sussistenza basata sull'addomesticazione degli animali, soprattutto bovini, pecore e capre. Quella che emerse nel bacino del Volga tra il 5000 e il 4500 a.C. fu una cultura che avrebbe avuto un'enorme influenza nel corso della storia europea. Si tratta della cultura Kurgan. Caratteristiche distintive che segnano archeologicamente la cultura Kurgan della metà del quinto millennio sono la mobilità del popolo dovuta alla domesticazione e alla monta del cavallo, il ruolo del cavallo e del bue nella religione, la diffusione di mandrie di animali e della pastorizia e il sorgere del patriarcato e della divisione in ranghi. Incominciano a comparire ricche tombe maschili, probabilmente dei capi, nelle quali il maschio era equipaggiato con armi di prestigio e insegne, asce pesanti fatte di porfido, stiletti di selce accuratamente decorati, archi e frecce, scettri di pietra a forma di testa di cavallo. In quest'epoca la gerarchia sociale e l'ordine patriarcale erano già fissati. Nell'economia si diffuse una tendenza alla pastorizia nomade, soprattutto della pecora. A differenza dei coltivatori europei, che stavano nella stessa località per generazioni, i pastori si muovevano di pascolo in pascolo durante l'anno. Probabilmente costituivano piccole unità tribali, insediandosi in un'area per un periodo limitato. Le case che costruivano non erano resistenti. Intorno al 4500-4300 a.C., questi popoli si consolidarono in una cultura con pratiche e manufatti funebri ben definiti. Una fossa scavata nella terra nella quale si deponeva il morto, ricoperta da un tumulo tondeggiante di pietra o terriccio, detto Kurgan in russo, dato che questo tipo di monumenti pare essere la caratteristica più distintiva di questo popolo, la loro cultura fu chiamata cultura Kurgan da chi scrive nel 1956. Il termine cultura delle tombe a fossa è troppo generico, perché in varie epoche della preistoria sono state usate delle sepolture di questo tipo, che tra l'altro si trovano in tutto il mondo, ma la combinazione tra una tomba fossa e un kurgan, cioè un tumulo, è tipica della fascia delle steppe euroasiatiche. Il termine cultura Kurgan è usato come nome convenzionale per le tribù nomadi dedite al pascolo e alla guerra dell'Ucraina, della Russia meridionale e delle steppe dell'Asia centrale nel periodo dal 4500 al 2500 a.C. circa, un periodo in cui questi gruppi si espansero in Europa, in Asia centrale, in Anatolia e nel vicino Oriente. La cultura Kurgan è un fenomeno della steppa ed è collegata al nomadismo dei popoli che si svilupparono dopo l'addomesticazione del cavallo. Quel che emerge dagli scavi dei Kurgan è l'immagine di una cultura drasticamente diversa dal punto di vista economico e spirituale, dai pacifici coltivatori dell'Europa antica. A differenza degli antichi europei, le culture Kurgan delle steppe dedicavano la sepoltura speciale sotto il Kurgan a un individuo, attribuendogli così uno status particolare. Nei Kurgan di solito è presente solo il genere maschile. Questo è in contrasto con l'antica Europa, dove entrambi i sessi erano sepolti insieme a indicare un diffuso egualitarismo sessuale. Un'ulteriore differenza tra le due culture è nei tipi di corredi funebri sepolti con i morti. Nell'Europa antica questi erano in gran parte simbolici, intesi a velocizzare il processo di rigenerazione della vita dopo la morte. Nelle sepolture Kurgan, invece, i corredi funebri erano soprattutto armi o insegne di rango. L'enfasi sulle armi sepolte con il maschio, frecce raccolte in faretre, lance, coltelli o stiletti, mostra il valore che i Kurgan attribuivano all'arte del combattimento. Il capo della comunità probabilmente esercitava un potere assoluto sui suoi sottoposti. Nella sua enfasi sul potere di pochi guerrieri maschi, la società Kurgan era diametralmente opposta alle pacifiche culture matrilineari dell'Europa antica. I popoli Kurgan tenevano in bassa considerazione le donne. Molte sepolture sono di individui maschi, ma in altre il maschio è accompagnato da altri scheletri, solitamente di donne, talvolta di bambini o giovani. La moglie e i figli, sacrificati al momento della morte del congiunto, venivano sepolti con lui. In India e in altre culture indoeuropee ci sono attestazioni della pratica di seppellire la vedova con il marito deceduto, nota con il termine sati. Le tombe di per sé parlano chiaro di un ordine patriarcale. Come riportava Erodoto nel V secolo a.C., gli sciti, una tribù che discendeva da antenati Kurgan, consideravano i loro Kurgan delle tombe sacre dei padri ancestrali, non delle madri. La pratica del sati e i tipi di resti trovati nelle sepolture, in particolare le scorte di cibi e bevande, ci narrano di come questi pastori vedessero il mondo dell'aldilà. Per essi l'aldilà era un viaggio lineare di sola andata verso un regno dei morti in cui l'anima avrebbe vissuto per l'eternità, senza nessuna possibilità di rinascere. Il cibo, le bevande, gli oggetti e le armi erano intesi a sostenere l'individuo che manteneva il suo rango terreno nell'aldilà. Gli studi indoeuropei comparati, nei quali si confrontano mitologie e religioni di diverse culture di origine indoeuropea, affermano che nelle prime credenze indoeuropee il mondo infero fosse una fortezza con bastioni e mura di cinta. Queste credenze erano in forte contrasto con le credenze degli antichi europei, per i quali la morte era inestricabilmente intrecciata al ciclo della vita. Morte e rigenerazione, nel quale ciclo tutte le persone erano uguali. Con il tempo, il popolo Kurgan si sarebbe diffuso ben al di là dei suoi confini nelle steppe russe. Si sarebbe esteso su quasi tutta l'Europa centrale e in gran parte dell'Asia. Nel mondo della preistoria, la rapidità con la quale la cultura Kurgan si diffuse fu senza precedenti. Che cosa poteva aver permesso a queste culture guerriere di diffondersi su aree tanto vaste? La risposta sta in uno dei più importanti attori nel dramma della storia umana, il cavallo.